Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Oggi la parola lavoro fa venire in mente una sola cosa, cioè il fatto che manca la disoccupazione. Come ci ricordano tutte le statistiche, è a livelli record, perciò insomma può apparire un po' vano parlare del futuro del lavoro, come ci apprestiamo a fare, quando nel presente appunto il lavoro non c'è. Tuttavia la crisi è solo una delle dimensioni dello tsunami che si sta abbattendo in questa nostra epoca sul mondo del lavoro. La globalizzazione fa sì, lo sappiamo bene, che le produzioni industriali e più di recente anche molti servizi, come per esempio i call center, delocalizzino all'inseguimento del costo del lavoro più basso o magari di leggi ambientali più permissive. Ma ciò che più conta nel lungo periodo è che il progresso tecnologico sposta sempre più avanti il confine tra ciò che sanno fare gli uomini e ciò che sanno fare le macchine. Ed è qui una delle chiavi per interpretare come cambierà il mondo del lavoro in futuro. Carsten Beck del Copenhagen Institute for Future Studies è considerato uno dei massimi esperti internazionali di trend e megatrend futuri proprio per quanto concerne il mondo del lavoro. Ecco quindi cosa mi ha raccontato, intervistato alcuni giorni fa mentre si trovava in Italia. Sentiamo. Credo che vedremo molti cambiamenti in Italia come nel resto d'Europa. Ma il più importante a cui assisteremo è una sorta di polarizzazione, verso alta e bassa scolarizzazione allo stesso tempo. Voglio dire che da un lato avremo bisogno di persone con un grado molto elevato di specializzazione, ma contemporaneamente vedremo ingrossarsi le fila dei lavoratori con una specializzazione molto bassa. Perciò i lavori a media specializzazione andranno a scomparire? Non spariranno, ma ci sarà una forte pressione su queste tipologie di lavoro. Parliamo soprattutto dei settori dell'industria e dei servizi, dove sempre più attività potranno essere automatizzate e svolte dalle macchine. Naturalmente, anche le attività a bassa specializzazione potranno essere automatizzate, ma ciò sarà molto difficile per alcuni impieghi nel settore agricolo, per esempio, o nel settore dei servizi, dove per certi compiti non esistono macchine efficienti. Prendersi cura delle persone anziane, per esempio, può essere uno di quei lavori che sopravviveranno. Sì, anche se a dire il vero prendersi cura degli anziani richiede delle capacità e continuerà a richiederle anche in futuro. Sta di fatto che assisteremo a questa polarizzazione. Con la diffusione della robotica, dell'automazione, ho sempre pensato, ma non sono certo l'unico a farlo, che il rischio sia di andare verso un mondo con pochissimi lavoratori super specializzati che gestiscono tantissime macchine e una enorme massa di disoccupati. Ecco, lei quindi non ha in mente questo scenario? No, naturalmente siamo molto preoccupati e frustrati per il livello di disoccupazione raggiunto in Europa e in particolare in Italia. Ma non vedo un futuro dove si corre il rischio di avere una situazione di stabile disoccupazione di massa. Primo, perché ci inventeremo sempre nuovi servizi e bisogni. E secondo, perché a causa dell'invecchiamento della popolazione europea, in realtà la forza lavoro non sarà molto numerosa in futuro. Tuttavia, è vero. Avremo robot e sistemi automatizzati di ogni genere e quindi prima di prendere decisioni che possano avere effetti sull'occupazione dovremmo pensarci bene, perché sarebbe sbagliato o pericoloso avere masse enormi di disoccupati. Senta, a proposito di lavoro e di futuro, lei spesso parla di una figura che identifica come creative man, uomo creativo. Le chiedo che cosa intende, ma le chiedo anche se alcune tipologie di figure, come per esempio quella dell'artigiano, che in Italia è molto importante, avrà un futuro, magari anche cambiando radicalmente. Credo che ci sarà certamente spazio per artisti, artigiani, eccetera. Anzi, credo che in Europa dovremmo allargare il tema della creatività ben oltre il confine delle arti. Creativo è anche chi inventa videogiochi, che oggi pongono nuove sfide al modo in cui, per esempio, si insegna nelle scuole. Più in generale, una delle grandi sfide del futuro sarà proprio capire come valorizzare la creatività che c'è dentro ogni persona. Sia che si occupi di accudire gli anziani, sia che si tratti di uno dei principali attori sulla scena nazionale. Ma attenzione a non esagerare. Se la discussione finirà per incentrarsi tutta su aspetti come la creatività e l'innovazione, perdendo di vista quelle che sono le competenze di base, come il calcolo e la lettura, su cui le giovani generazioni sembrano zoppicare, allora l'Europa fallirà. Una segnalazione prima di lasciarci: Carsten Beck e altri esperti internazionali di futuro come lui li potete incontrare in questi giorni a Udine nel corso del Friuli Future Forum che si concluderà il 29 novembre. Noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento a domani per la seconda parte dell'intervista a Carsten Beck. Parleremo dei nuovi modi di imparare. Buona serata.